Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, come sono andate oggi le borse europee? In maniera molto molto altalenante. Diciamo che non c'è stato il temuto martedì nero dopo il lunedì nerissimo, non c'è stato però nemmeno lo sperato recupero netto, vistoso e indiscutibile sui mercati, perché le borse hanno tutte chiuso, quasi tutte perlomeno, sui livelli di ieri, nel senso che Milano ha perso alla fine lo 0,3% sull'S&P, sul MIBTEL, lo 0,2% sull'S&P MIB, Parigi è la migliore, alla fine porta a casa uno 0,9% di rialzo, Francoforte meno 0,2%, Londra anch'essa tra le migliori e anch'essa in rialzo dello 0,9%. L'America non ha dato una mano e non la sta dando in questo momento, con il Dow Jones che perde lo 0,12%, vedremo come si avvieranno la chiusura, ma insomma l'indicazione a questo punto sembra essere abbastanza confermata. Comunque vada, nei prossimi 20 minuti la chiusura dovrebbe essere vicina alla parità, forse un più 0,2, forse un meno 0,2%, ma insomma il calo di ieri le borse se lo sono portate a casa, se lo sono tenute. Poi all'interno del listino invece oggi qualche differenza c'è, mi riferisco a Milano in questo caso, perché Tenaris ha recuperato bene, guadagna il 9,15%, Intesa San Paolo ha recuperato non tutto lo scivolone di ieri, ieri ha perso il 12%, ora guadagna il 3%, come Enel, Alleanza più 2,8, Eni più 2,5, ST Microelectronics più 1,6, Geox più 1,4, Luxottica più 1%, come l'Espresso, A2A lo 0,6%, come Terna, mezzo punto percentuale, Snam, Rete Gas. Chi perde in maniera vistosa anche oggi? Impregilo meno 8,6, Pirelli meno 8,3, è scesa in Pirelli a 31 centesimi di euro per azione, per quello che riguarda il titolo, il che significa essere ai livelli più bassi da tantissimo tempo, nel senso che pensiamo che nel 2006 Pirelli ancora viaggiava intorno ai 6, ai 5 centesimi e mezzo per azione, qui siamo scesi a 3 centesimi per azione. Popolare di Milano meno 7,9 a 5 euro, Mediolanum meno 7,6 a 3 euro, Unipol meno 6,8, Seat meno 6,7, come Mondadori, Fiat perde il 5,5 e scende a 7,46 euro, Saipem meno 5,3, Unicredito meno 4,7%, anche oggi quindi in calo il titolo a 2,77 euro, quindi sotto il livello diciamo teorico nominale dell'aumento di capitale, Fast meno 4,5, Monte dei Paschi meno 4,4, Prismian perde il 4, Bulgari il 3,80, Mediaset il 2,7 come Autogrill e Ubibanca, il 2,3 lo perde l'Automatica, l'1,2 Parmalat e il Banco Popolare, ma anche Buzzi Unicem. Telecom Italia meno 0,90%. Su Telecom avremo anche un piccolo approfondimento, perché le preoccupazioni da quando il titolo è sceso sotto l'euro per azione, infatti è 94 centesimi, insomma sì, il mercato si interroga su che cosa capiterà nell'azionariato Telecom. Devo dire che oggi Telecom è andata molto molto peggio, era letteralmente affondata a metà seduta, meno 8%, una caduta che portava e riportava d'attualità il tema del reintegro delle garanzie da parte dell'azionista di controllo a Telco, mentre un livello del genere secondo molti operatori rendeva più complicato la ricerca di un nuovo socio disponibile a mettere liquidità, capitali freschi, anche perché secondo gli osservatori su Telecom pesa anche l'alto livello di indebitamento. Detto ciò, sul mercato è successo un po' di tutto, adesso ve lo raccontiamo, poi parleremo del vertice Ecofin, che non ha, come già ieri si era capito dal vertice dell'Eurogruppo ieri sera, non ha ottenuto una soluzione condivisa, quindi i 27 ministri finanziari dell'Unione Europea non sono andati oltre un così limitato aumento della soglia di garanzia dei depositi tra l'altro che non riguarda l'Italia, perché noi già ce l'avevamo più alta, a 103.000 euro. Comunque i ministri dell'Unione Europea hanno deciso di portare da 20.000 a 50.000 euro la soglia minima di garanzia dei depositi, ma poco altro è uscito da lì, e questo è un elemento che comunque non aiuta i mercati, non aiuta soprattutto a fornire un'immagine di un'Europa che si muove come un unico soggetto, e questo nel medio termine rischia di rappresentare un elemento di debolezza. Ancora sui mercati dei cambi, l'euro è 1,3604, mentre il petrolio ha aperto sopra i 90 dollari al barile, poi ha ampliato anche il rialzo a 93 dollari al barile. Nel frattempo però una buona notizia: è scattata una raffica di ribassi per i prezzi dei carburanti, e da questa mattina tutti i listini delle compagnie sono in calo, con punte fino a 1,8 centesimi al litro in meno all'APIP sulla benzina verde, che scende così a 1,419 al litro. 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi torniamo a una struttura più classica di Focus Economia, niente telefonate, avremo altri temi. In sostanza però i temi saranno vertice Ecofin, Fondo Monetario Internazionale che dice attenzione, la crisi costerà più di 1.300 miliardi di dollari, e le banche avranno bisogno di 650 miliardi di dollari, per cui non arrivano indicazioni così confortanti dal Fondo Monetario Internazionale. Rapidamente in sintesi le altre notizie. Sono convocati per domani i sindacati all'Italia, dall'amministratore delegato, dal commissario straordinario, scusatemi, Augusto Fantozzi, domani alle 16. Questo dopo una richiesta arrivata dalle sigle sindacali per chiedere un incontro urgente. Ieri in serata il Presidente del Consiglio Berlusconi, dopo l'incontro con il Cancelliere Merkel, aveva fatto presente come Lufthansa fosse l'ipotesi, diciamo, da preferirsi. Oggi però l'advisor per l'Italia di Air France, Francesco Mengozzi, ex numero uno dell'Alitalia, ha detto che l'ipotesi Air France era ancora aperta, che era ancora aperta la partita con Air France, mentre il sottosegretario allo sviluppo economico Ugo Martinat ha detto che il governo punta sul superamento del dualismo tra Fiumicino e Malpensa, valorizzando entrambi gli scali. Non è stato però chiarito come, ma andiamo avanti con altri temi. I sindacati stanno valutando negativamente, dopo l'incontro con l'Aran, la situazione nel pubblico impiego, e a questo punto per il rinnovo contrattuale soprattutto CGIL, CISL e UIL chiedono ancora un incontro urgente del governo. La battaglia sarà dura e lunga e potrebbe concretizzarsi, hanno detto i tre sindacati, in più iniziative di protesta, non escludendo lo sciopero generale della categoria. E tra l'altro, secondo il leader della CGIL, Guglielmo Epifani, è probabile che per quello che riguarda gli statali si vada verso lo sciopero. E oggi, sempre in tema di modelli contrattuali, ma della riforma del settore privato che Confindustria sta discutendo con i sindacati per arrivare a una modifica degli accordi del 93, che secondo le intenzioni di Confindustria dia maggiore spazio e margine alla contrattazione aziendale. Ecco, oggi il Centro Studi Confindustria ha spiegato quale dovrebbe essere il vantaggio in busta paga. 766 euro reali, quindi al netto dell'inflazione, in più in 3 anni, a cui si aggiungerebbe un vantaggio fiscale di quasi 230 euro annui, costituito dalla differenza tra l'aliquota marginale IRPEF e quella del 10% prevista dalle nuove norme del governo sugli aumenti retributivi variabili. In questo modo si arriva appunto al calcolo di 26.000, che da 26.678 euro lordi l'anno porterebbe il salario medio a 29.180. Un più 9,4% nominale in 3 anni. Passiamo all'Euribor, che continua a registrare record consecutivi. Oggi è salito al 5,38%, il tasso che si utilizza per tutti i prestiti bancari a partire dai mutui a tasso variabile. Allora, io direi di passare adesso direttamente alla prima pagina, che è la pagina dedicata alle borse. Numerose notizie arrivate non solo dall'Italia, ma anche dalla Russia, una borsa che diciamo non è più le volte che è chiusa, le volte che è aperta, e poi il vertice Ecofin. Allora, questa mattina la chiusura delle borse asiatiche era stata debole, ma non bruttissima se guardiamo a quella di ieri delle borse europee. Hong Kong aveva perso il 4,9% e Tokyo il 3%. È chiaro che le borse asiatiche si erano avvantaggiate della chiusura di Wall Street di ieri sera, che era stata sì negativa, ma non così negativa come durante la seduta. Ieri Wall Street ha perso il 3%, era arrivata a perdere oltre il 7%, e quindi questo recupero nel finale ha un po' avvantaggiato le borse europee, tant'è che oggi l'Europa è aperto in rialzo sulla spinta di un'ipotesi di una banca centrale europea che potrebbe tagliare i tassi di interesse. E il MIBTEL è arrivato subito in apertura a guadagnare oltre il 2%, ma erano difficoltà, come abbiamo raccontato, per Unicredit fin dall'apertura, un meno 4,7%. Poi ha girato dopo meno di un'ora in negativo, ma le Fiat, Unicredit e anche Geox in pregilo, e con una raffica di sospensioni a un certo momento tra cui Fiat e Telecom. Si era arrivati infatti alle 10 di mattina a 8 società sospese su 40 società dell'S&P MIB, erano sospese o congelate per eccesso di ribasso Fiat, Telecom, Impregilo, Geox, Fastweb, Banco Popolare, la Popolare di Milano e Seat. Nel frattempo in Germania andavano molto molto male Deutsche Bank e Commerzbank, e quindi due dei principali gruppi bancari tedeschi, meno 13% Commerzbank e meno 9% Deutsche Bank. Anche perché Deutsche Bank aveva annunciato di non prevedere un aumento di capitale, non prevedere di realizzare l'aumento di capitale in parte annunciato, mentre in Germania è stato un vero e proprio boom di acquisti sul titolo Volkswagen dopo le vendite allo scoperto, più 52%, e Volkswagen è la migliore azione del continente europeo con un progresso da inizio anno del 188%. Tant'è che in questo modo la Volkswagen è diventata il primo gruppo mondiale nel settore auto per capitalizzazione di borsa, superando così la Toyota. Che cosa sta spingendo la Volkswagen? Beh, le prospettive di utile del gruppo, più 1% nel 2009, ma soprattutto, anche se queste prospettive sono diciamo meno interessanti e meno forti dell'utile che dovrebbe registrare quest'anno, un più 17%, ma a spingere il titolo sono soprattutto le strategie di alcuni hedge fund, in particolare diversi fondi speculativi che hanno venduto il titolo allo scoperto, sono poi stati costretti a chiudere le loro posizioni e quindi ricoprirsi, sono elementi un po' tecnici, acquistando sul mercato azioni di cui non disponevano. Vendere allo scoperto vuol dire vendere infatti un titolo senza averne le azioni. Nel frattempo in Gran Bretagna, dopo Barclays, anche Royal Bank of Scotland ha smentito la notizia secondo cui avrebbe presentato al governo inglese la richiesta per ottenere nuovi capitali. Il risultato è stato che Royal Bank of Scotland ha perso oltre il 20% e sta perdendo oltre il 20%, e già ieri aveva perso un 23%, male anche Barclays, che ieri aveva perso il 17% e oggi cede intorno al 3%. E poco fa su Unicredit Moody's ha tagliato il rating, ma ha lasciato l'outlook stabile, ossia le prospettive sono stabili, il voto, l'affidabilità è passata da AA3 a AA2, il titolo in questo momento perde 4,7%. Il caso russo, e poi passiamo a Bruxelles, perché a questo punto la Russia, che ha avuto moltissime difficoltà a far aprire la borsa di Mosca in questi giorni, in queste settimane, che cosa è successo oggi? Beh, ieri erano crollati gli indici di Mosca del 19%. Oggi il leader del Cremlino Medvedev ha annunciato un prestito da 26 miliardi di euro alle banche. Il governo russo lo scorso 18 settembre aveva già erogato un prestito da 45 miliardi di euro alle tre principali banche statali russe. E poi c'è anche il prestito che la Russia ha dato all'Islanda. La banca centrale islandese infatti ha avuto 4 miliardi di euro di prestito dalla Russia per iniettare liquidità in un settore finanziario in forte difficoltà. Tant'è che ho capito che è l'Islanda, però hanno nazionalizzato in Islanda la seconda banca del paese. E poi il Fondo Monetario Internazionale che dice: terremoto senza precedenti costerà questa crisi 1.400 miliardi, continua a alzarsi il livello del danno economico di questa crisi, e tra l'altro le svalutazioni ormai hanno raggiunto 760 miliardi di dollari, dice il Fondo Monetario, di cui 580 miliardi a carico delle banche. Ma secondo il Fondo, e questo è il dato che ricordavamo anche ieri, sono emerse in questo momento soltanto la metà di tutte le perdite potenziali conosciute. Gli intermediari finanziari non bancari hanno accumulato perdite per almeno 180 miliardi, le assicurazioni hanno avuto perdite per circa 100 miliardi, 60 miliardi li hanno persi gli hedge fund e le società pubbliche hanno proceduto a svalutazioni per 15 miliardi. Ma alla fine della tempesta l'oro rosso, secondo il Fondo Monetario, non sarà inferiore ai 115 miliardi per le società pubbliche. E poi il Fondo Monetario critica la frammentazione, così arriviamo al tema europeo, e dice che le banche avranno bisogno ancora di 675 miliardi di dollari di capitale nei prossimi anni. Insomma, il dato importante è che secondo il Fondo tutto quello che è successo fino adesso rappresenta la metà di quello che dovrebbe succedere. Ora, l'abbiamo detto più volte, è inutile chiedersi a che punto siamo del guado, visto che non sappiamo quanto ampio sia il danno, ma per queste stime, se va bene, siamo a metà. Ora immaginiamo come abbiamo vissuto l'ultimo anno. Se tanto mi dà tanto, avremo un altro anno simile, se manca ancora metà del buco dei prodotti tossici all'appello. Ecco perché oggi e ieri sera ci si attendeva una risposta forte dall'Unione Europea, risposta che non è necessariamente arrivata. L'elefante ha partorito un topolino, si dice in questi casi. 27 ministri finanziari oggi dell'Unione Europea per trovare misure comuni e concrete per fronteggiare la crisi dei mercati. Che cosa hanno deciso? Beh, semplicemente di alzare la soglia di garanzia minima sui depositi bancari da 20.000 ad almeno 50.000 euro. Ripeto, misura che non tanto a noi non interessa, perché da noi comunque la soglia era già più alta, 103.000 euro, una delle più alte in Europa. Dino Pesole, inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles, buonasera. Buonasera. Allora, intanto il ministro delle finanze francese Christine Lagarde, la Francia è presidente di turno dell'Unione Europea, ha detto: non tollereremo uno scenario in Europa simile a quello creato in America dal crack di Lehman Brothers. Nos objectifs communs sont évidemment de garantir. I nostri obiettivi comuni sono di garantire la stabilità del sistema finanziario europeo, proteggere i cittadini e assicurare il finanziamento dell'economia europea. L'urgenza, il carattere inedito, senza precedenti, e l'ampiezza della turbolenza sui mercati hanno spinto alcuni Stati ad adottare misure d'urgenza. Ciò che è importante oggi è di ritrovarci su un approccio e una volontà comune. Al centro delle nostre discussioni c'è stata la volontà volontà di dare una risposta coordinata alla crisi economica e finanziaria che agita i nostri mercati. L'Europa è unita di fronte alla crisi finanziaria ed è determinata ad agire in modo coordinato. Nel breve termine abbiamo deciso di prendere alcune misure concrete. Innanzitutto abbiamo sottolineato la volontà di assicurare la solidità e la stabilità del sistema bancario e siamo pronti ad adottare tutte le misure per raggiungere questo obiettivo. Per assicurare una buona protezione dei nostri cittadini, ci siamo trovati d'accordo nell'alzare da 20.000 a 50.000 euro l'ammontare minimo garantito dallo Stato sui conti correnti bancari. Voglio sottolineare che molti Stati membri hanno voluto portare questa soglia a 100.000 euro. Voglio sottolineare inoltre che non tollereremo che ci sia una Lehman Brothers europea. Nous ne tolérerons pas un Lehman Brothers européen. Allora, scrivono alcuni ascoltatori che lavorano in banca, immagino piantatela di mandare in panico i risparmiatori o la coda di persone che chiedono se i risparmi sono al sicuro. Sto scoppiando. Mi dispiace, mi rendo conto della difficoltà, ma non siamo noi che mandiamo i risparmiatori in panico quando le borse crollano come mai negli ultimi 21 anni e soprattutto quando le banche forse hanno comunicato le svalutazioni in maniera così un po' restia, per cui si è arrivati alla fine, nel caso di un credito, a dover fare un aumento di capitale dopo che per settimane si era negata la necessità. Comunque, Dino Pesole, primo fronte, due domande per te, fronte europeo e poi fronte italiano. Ho detto che l'elefante ha partorito un topolino, è troppo ingenerosa come critica? Beh, la Lagarde ha parlato di un approccio e una volontà comune per come si erano messe le cose ieri sera con la riunione dell'Eurogruppo. Effettivamente un piccolo passo in avanti c'è, poiché ieri sera si è avuta qui a Lussemburgo la sensazione precisa, soprattutto dopo il no che Angela Merkel ha opposto all'idea di costituire un piano, insomma, europeo, un fondo europeo, e l'impressione era appunto che ogni paese europeo andasse a briglia sciolta. Impressione che ovviamente non si è del tutto dissolta oggi e che comunque in qualche modo nel comunicato finale si rintraccia almeno una volontà comune di affrontare la crisi con strumenti il più possibile coordinati. Allora, il problema qui è capire se si riuscirà a far fronte in che modo alla crisi. Lo strumento che oggi viene adottato è semplicemente quello di elevare la soglia minima per la garanzia statale per i depositi, e obiettivamente è un po' poco. Però c'è anche un altro aspetto e su questo occorre dire che il ministro dell'economia Tremonti proprio pochi minuti fa si è soffermato a lungo, e cioè si è individuata, e se ne trova traccia anche nel comunicato finale, una soluzione che potrà aprire la strada a una diversa, diciamo, accezione del capitolo relativo agli aiuti di Stato. Ovviamente ci si riferisce in questo caso agli aiuti di Stato diretti al sistema bancario, non a tutti gli aiuti di Stato. Ebbene, secondo Tremonti la novità è che d'ora in poi la commissione che è stata incaricata dall'Ecofin di mettere a punto una sorta di manuale in tempi brevi dovrà individuare sostanzialmente tutti quei casi in cui l'approccio non dovrà essere più quello del divieto assoluto, ma andiamo a vedere di quale caso si tratta e vediamo se sono state rispettate le regole. Mm-hmm. Si tratta, come dire, di un salto di approccio, perché finora la Commissione ha adottato, come dire, una strategia sostanzialmente di divieto, no? Certo. Ora, ecco, se questo produrrà nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, speriamo già settimane, degli effetti è difficile dirlo. Comunque si è trattato di una soluzione di compromesso. Allora, io dopo le informazioni meteo e la pubblicità ti farei sentire anche che cosa ha dichiarato il ministro, farei sentire soprattutto gli ascoltatori chiaramente, cosa ha dichiarato il ministro Giulio Tremonti in merito all'incontro, e vorrei capire se l'altro fronte, oltre a un'iniziativa comune Francia e Italia, quindi Tremonti, Lagarde o Sarkozy e Berlusconi hanno più volte chiesto un fondo di garanzia comune europeo pari al 3% del PIL, ma e questo abbiamo visto che insomma non è passato come concetto, perché Germania e in Gran Bretagna si oppongono. L'altro fronte che è emerso già ieri sera dal vertice Eurogruppo è il fronte del trattato di Maastricht, cioè capire se in una situazione, se la situazione dovesse aggravarsi, visto che lo stesso Almunia ha detto oggi bisognerà operare salvataggi difficili di alcune banche, perché è chiaro che se manca metà del danno all'appello balleremo ancora per un po'. Ebbene, c'è chi dice non si può prevedere un trattato di Maastricht che, insomma, che tenga conto della situazione drammatica di crisi finanziaria, per ora speriamo non economica, che sta attraversando anche l'Europa. Allora, Dino Pesole da Lussemburgo, l'altro fronte oltre al fondo comune europeo che Germania e Gran Bretagna non vogliono, potrebbe essere, questo non riguarda la Gran Bretagna, riguarda solo l'area euro, un ammorbidimento, sospensione, insomma, dei vincoli di Maastricht se la situazione dovesse toccare in maniera pesante anche l'economia reale e non solo la finanza? Guarda, se ne è parlato ieri sera in conferenza stampa con il commissario Almunia. La linea che hanno adottato i ministri, d'accordo con la Commissione, per ora è una linea soft, nel senso che viene ribadito che già nella versione attuale del patto, ricordo, è stata rivista non molto tempo fa, perché poi alla fine si parla del 2005, la nuova accessione del patto di stabilità rispetto alla precedente, prevede già che in casi straordinari come quello che stiamo vivendo si possa applicare, diciamo, la disciplina di bilancio che governa i conti dei paesi dell'area dell'euro in modo più flessibile. Quindi è un modo, come dire, un sistema anche indiretto per riconoscere che in questa fase la flessibilità del patto di stabilità è, come dire, obbligatoria. Cosa vuole dire in concreto? Non l'hanno detto esplicitamente, ma, come dire, dall'impressione che abbiamo avuto noi tutti qui è che, ad esempio, se uno dei paesi dell'area dell'euro dovesse, anche per effetto degli aiuti che metterà in campo per aiuti, cioè per sostenere il sistema bancario in crisi, superare temporaneamente il tetto del 3%, sarebbe concesso a questo stesso paese un termine, un margine più ampio per rientrare. Quindi questa già potrebbe essere una novità. Del resto appare evidente a tutti che invocare rigidità in questo momento potrebbe sembrare diciamo una scelta suicida, quindi non possono dirlo perché esplicitamente, perché sennò l'invito sarebbe un, come dire, libera tutti, quindi ognuno dei paesi, poiché non esiste un reale coordinamento delle politiche economiche in Europa, rischierebbe appunto di sforare il tetto massimo e si aprirebbero delle voragini nei conti. Però, diciamo, tra le righe si intravede una possibilità di applicarlo in modo flessibile, questo non c'è dubbio. Nessun accenno per concludere alla Banca Centrale Europea, Dino, e al suo atteggiamento che molti hanno, insomma, un po' criticato in questi mesi? È una domanda che abbiamo rivolto ieri sera esattamente a Trichet. Lui si è difeso dicendo che la Banca Centrale Europea finora ha fatto quello che poteva, e cioè ha immesso liquidità nel sistema laddove questa liquidità era richiesta, e dunque a ognuno il suo mestiere. Diciamo che per ora la situazione è questa. Occorrerà capire anche nel prossimo Consiglio europeo, che si terrà a Bruxelles la settimana prossima, lì, diciamo, a livello di capi di Stato e di Governo, se ci sarà, ci potrà essere una soluzione, diciamo, un po' più concordata e concertata, e anche, direi io, un po' più incisiva rispetto al compromesso raggiunto qua. Grazie, che appunto torniamo da dove siamo partiti. Topolino era, poi possiamo chiamarlo come vogliamo, ma che abbia partorito un topolino sembra fuori discussione questo incontro. Grazie Dino Peso, l'inviato da Sole 24 Ore in Lussemburgo, occasione in cui appunto l'Europa, ma già lo si era capito ieri sera, ripeto a chi scrive al 349-238-6666, l'Europa non è riuscita a dare a far fronte comune, neanche l'area euro. Le divisioni poi restano. Dunque, alcuni di voi, un ascoltatore ci scrive con dei toni così discutibili, pieni di insulti, che già qualificano comunque il messaggio. Ma secondo voi la crisi non è economica? Siete, e poi tralascio il commento. Allora, la crisi in questo momento è una crisi, le svalutazioni sono tutte finanziarie. Il timore, lo abbiamo detto, ridetto, è che se le iniziative non arrivano in tempo rapido in Europa, soprattutto si trasli in maniera netta la crisi da finanziaria a economica. In questo momento il problema, diciamo, della crescita italiana, il problema dei consumi, non è un problema che nasce con i mutui subprime, è 3 anni che i consumi in questo paese non partono per via di prezzi, di un rapporto euro-lira di un certo tipo, e tutto un insieme di motivi, incluso il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e le pensioni, e una finanziaria che ha messo un'inflazione programmata all'1,7%, quindi non permette di recuperare il potere d'acquisto, visto che l'inflazione è al 3,5%. Insomma, ci sono tanti problemi, non è che tutto derivi dalla crisi dei mutui americani subprime. Quello che è certo è che se le banche, come in alcuni casi stanno già facendo, chiuderanno i rubinetti del credito per le imprese, oltre che aumentare i costi dei mutui e dei prestiti per le famiglie, e la crisi si trasferirà a pie pari da finanziaria a economica, e economica vuol dire anche licenziamenti. In questo momento in America i licenziamenti sono quasi tutti di dipendenti bancari, in Europa licenziamenti, per fortuna, tranne che in Svizzera, in UBS, non ce ne sono stati, e comunque dovrebbero riguardare solo la parte bancaria e finanziaria. Altra cosa è la crisi economiche. Io ricordo a chi scrive con un po' di saccenza che nel 29 la crisi del 29 diede i suoi effetti più brutti verso il 1932 e 33, quando da finanziaria borsistica divenne crisi occupazionale, un americano su 4 per strada, il piano Roosevelt, e fu risolta solo nel 39-40, quando l'America partì con una mega operazione di riarmo in vista della Seconda Guerra Mondiale. Questa è la storia, non sono opinioni. Quindi attenzione a non confondere una crisi bruttissima, finanziaria, bancaria, borsistica, con una crisi economica che per ora, per fortuna, non vediamo ancora manifestarsi e non vorremmo vederla mai. Comunque, sentiamo nell'ordine altre dichiarazioni dal Lussemburgo. Il commissario agli affari economico monetari Gioacchino Almunia, che dice: attenzione, dovremmo operare salvataggi difficili per alcune banche europee. Sono molto contento della serie di misure decise oggi. Penso che mostrino la volontà di affrontare con decisione l'attuale situazione sui mercati e illustrino dove intervenire, come sostenere le istituzioni finanziarie, chi deve prendere decisioni e come coordinarle. In questo modo è possibile un'azione coordinata delle istituzioni finanziarie, che così non rimangono isolate. Non vogliamo lasciare nessuno da solo. Oggi la situazione sui mercati richiede una risposta europea e un approccio globale. Le conclusioni a cui siamo arrivati oggi sono molto importanti. Erano necessarie e credo che manderanno un messaggio molto positivo ai mercati, ai cittadini e ai risparmiatori. Occorre evitare un rischio sistemico e limitare l'impatto negativo delle tensioni sui mercati sull'economia reale. Abbiamo anche necessità di rafforzare gli strumenti economici e finanziari. A livello europeo c'è necessità di rafforzare le regole di governance per affrontare la situazione finanziaria. Così Almunia, che dice: attenzione, ci saranno casi difficili nei tentativi di salvataggio delle istituzioni, mani avanti. E appunto, visto che, ripeto, secondo un fondo monetario, ne parleremo nella seconda ora del programma, ma siamo arrivati a metà del danno, ripeto, immaginare un altro anno in cui si balla così, capirai che gufo si prende gli straordinari. Allora, se i salvataggi saranno difficili secondo Almunia, tra l'altro poco fa, ve ne daremo atto adesso, c'è stata anche una telefonata del presidente americano Bush con Silvio Berlusconi e Sarkozy e Gordon Brown per cercare di avere un'attività coordinata. Da quello che si capisce, le agenzie sono appena uscite in merito a questa crisi. Dicevo, sentiamo invece le dichiarazioni anche del ministro Tremonti, sempre dal Lussemburgo, che ricordo come lo scenario solo fino a ieri fosse radicalmente diverso. Uno deve immaginare cosa sarebbe stato in base al disaccordo di ieri. Tutti andavano a casa e ciascuno faceva come voleva. tanto sui meccanismi di salvataggio delle banche quanto sui meccanismi di garanzia della... Poi, passando tutta una tastiera che va dagli interventi sul capitale alle garanzie per la liquidità fino alla garanzia ai depositanti. In realtà, in base a questo, con l'impegno di tutti, c'è una procedura, uno schema europeo piuttosto uniforme. Io francamente non credo che sia di rilievo sistemico questo differenziale da chi garantisce cosa, perché la vera questione è se sei capace o no di tenere in piedi il sistema bancario, mettendo i soldi del contribuente e cacciando quelli che hanno fatto degli errori. Questo è il punto essenziale. È tutto importante, però io credo che la vera strategia o competizione sarà correttamente tra chi è capace di tenere in piedi il sistema e chi non riesce. Quello dei depositi è un aspetto, cioè io non vedo gente che ha trasferito, c'è gente che ha trasferito i conti da Londra a Dublino, ma non c'è gente che ha trasferito i suoi conti ad Atene, pur essendo quella greca stata un'iniziativa competitiva, o in Danimarca. E poi, appunto, come avete sentito, il ministro ha ribadito che non esistono soluzioni nazionali e che l'unico piano B come Europa è quello del fondo comune, ma bisogna essere in 27, per cui l'accordo è difficile. Speriamo, lo dico senza sarcasmo, che non se ne debbano pentire i paesi contrari, Germania e Gran Bretagna, che sono i paesi in cui i sistemi bancari sono più esposti a questi strumenti tossici. Le informazioni per chi è in viaggio, chiedo scusa per il ritardo, e poi commentiamo la borsa, che ha chiuso con uno 0,9% di calo sul MIBTEL, lo 0,6% sull'S&P MIB, Francoforte meno 1,12%, Londra più 0,1%, Parigi più 0,5%, non c'è stato quindi il recupero oggi, nemmeno però un nuovo tonfo. Allora, adesso commentiamo con Livia Zancaner di Radio Corriere Sole 24 Ore, la giornata di borsa. Buonasera Livia. Buonasera. Prima qualche risposta. Allora, dite che abbiate il coraggio di dire che bisogna togliere i soldi dalle banche. So che non leggerei questo messaggio. No, l'ho letto, ma sono totalmente in disaccordo. Non c'è stato un caso di una banca italiana in difficoltà, non c'è stato un caso di crisi, non c'è un motivo per cui i soldi devono essere tolti dalle banche, allora non capisco perché dovremmo dirlo. Uno, così come invece allo stesso modo non sono d'accordo con chi dice dite agli ascoltatori che è il momento di comprare. Boh, se lei è così convinto che si sia arrivati alla fine del tunnel, compri lei. Io non compro e non dico di comprare, così come non dico di tirar via i soldi dai conti correnti. C'è un po' di confusione in chi scrive tra la situazione dell'investimento, fondi comuni di investimento, azioni, polizze, e che io non consiglio, nessuno qua ha mai consigliato di comprare in questo periodo, e i depositi bancari, i conti correnti. Ma voglio dire, sono garantiti fino a 103.000 euro in questo paese, è la garanzia più alta, ma di che cosa stiamo parlando? Non abbiamo avuto una banca retail, lo ripeto di nuovo, una banca che lavori con la clientela in crisi. Abbiamo avuto banche che avevano grandi divisioni finanziarie in crisi, o merchant bank o investment bank. Altri di voi dicono invece che bisognerebbe, visto il fatto che nessuno sa a quanto ammonti il buco, sospendere delle varie banche, sospendere le contrattazioni di borsa come avvenne dopo l'11 settembre. Avvenne solo negli Stati Uniti, in Europa restarono aperte. Sì, rischia di essere uno di quei rimedi peggiori del male, perché poi avete visto la Merkel che effetto ha avuto nel dire garantiamo tutti i depositi bancari, ha dato l'idea ieri che la situazione in Germania fosse peggiore di quanto uno non immaginasse. Sono quei rimedi che rischiano di essere peggiori del male, non lo so, non ne sono assolutamente convinto, ma la mia opinione non vale nulla. Livia, il peggior banca oggi, i mercati comunque che hanno chiuso sulla parità, mezzo punto in più per Parigi, un punto in meno per Francoforte, Invariata Londra, Milano ha perso mezzo punto percentuale sull'S&P MIB, lo 0,90 sul MIBTEL. Peggior banca, la Popolare di Milano, che perde quasi il 13%. Sì, allora in realtà non ci sono spiegazioni dal punto di vista dei fondamentali sulla caduta del titolo, che ha iniziato a scendere sul finale di seduta. In realtà, secondo i trader, si tratta di un mercato puramente tecnico con la realizzazione di arbitraggi storici, e sempre a detta degli operatori, alcuni fondi in difficoltà starebbero vendendo, e ci sarebbe anche la chiusura delle posizioni con Lehman, che dovrebbe essere effettuata nel giro di pochi giorni. Però in realtà non ci sono novità dal punto di vista dei fondamentali per giustificare l'andamento del titolo. Sì, io non vorrei adesso cioè che come solito il mercato avesse informazioni che noi non abbiamo, perché insomma il 13% dopo il calo di ieri, che se non ricordo male era nell'ordine del 10%, Olivia correggimi se sbaglio, in assenza di novità, con un titolo che torna ai livelli di 5 euro per azione, 5,45 euro, livelli che la Pop di Milano non vedeva da, sto andando a cercarli sul terminale, dal 2004. Mi sembra un po' tanto per l'assenza di notizie. Comunque, restiamo sui bancari. Secondo il peggior titolo, Unipol, meno 7,3%, Monte dei Paschi meno 4,6%, UbiBanca meno 4,2%, Unicredito meno 4%, e ancora il Banco Popolare meno 2,4%. Recupera invece Intesa San Paolo più 1,30%, ma ieri aveva perso quasi il 12%. Unicredito e Intesa. Allora, Unicredito ha tentato una momentanea risalita, ma poi è tornato in territorio positivo, ha perso quindi oltre il 4%. Allora, le azioni sono state penalizzate in particolare dal taglio del rating da parte di Moody's oggi nel pomeriggio, dopo che ieri Standard & Poor's aveva rivisto l'outlook a negativo, ma aveva confermato il rating. Inoltre le azioni sono state penalizzate all'indomani della presentazione del piano di ristrutturazione dai giudizi delle banche d'affari come ING, che ha ridotto la raccomandazione da comprare a mantenere, altre come JP Morgan, Citigroup, UBS e Dresdner. Per quanto riguarda Intesa, allora, gli operatori parlano di uno switch, cioè di una vendita di Unicredit e di un acquisto di Intesa, però come dicevamo prima sono movimenti tecnici. Allora, al di là dei numerosi messaggi che stanno arrivando, devo dire alcuni preoccupanti, perché sono da un lato bancari che dicono: guarda che stiamo già restringendo il credito, io dico imprese, ma è chiaro che intendo dire anche gli artigiani e chi ha attività commerciali, non solo le imprese manifatturiere in senso stretto, e anche artigiani e piccolissimi imprenditori che ci dicono: noi abbiamo già problemi nelle linee di credito. Speriamo di no, perché vorrebbe dire, ripeto, far transitare la crisi dalla finanza all'economia reale. Telecom Italia, Livia e Fiat. Sì, allora, Telecom ha chiuso in calo del 2,39%, sempre sotto la soglia di 1 euro, sotto la quale era scesa per la prima volta ieri. Allora, la banca d'affari ING ha abbassato il prezzo obiettivo da 1,4 a 1,85 euro, ma sempre con raccomandazione comprare. Più che altro, allora, le preoccupazioni sono relative ai dubbi sulle possibilità di ingresso dei nuovi soci nel capitale, vista la discesa dei prezzi, e dall'altra parte anche il fatto che la discesa delle quotazioni rende sempre più scomodo, tra virgolette, il livello di indebitamento di Telecom. Si sta infatti avvicinando il livello al quale scatta il reintegro delle garanzie nei confronti delle banche per Telecom, che è la società che è l'azionista di riferimento di Telecom. E per quanto riguarda Fiat, allora, la Fiat ha perso il 6,79%. Sì, la Fiat, cioè, diciamo, le preoccupazioni su Telecom sono, se ho ben capito, Olivia, che a questi livelli di prezzo del titolo sotto l'euro per azione diventi difficile trovare qualcuno che inietti liquidità, ho capito bene? Sì, allora, lo stesso direttore finanziario del gruppo, Marco Patuano, oggi ha detto che in questo momento è difficile pensare che ci possano essere presto offerte concrete per l'ingresso nel capitale. Nei giorni scorsi infatti si parlava dell'ingresso del Libyan Investment Authority, mm-hmm, di fondi sovrani russi e anche del Kuwait. Allora, andiamo avanti, scusami, ti ho interrotto su Fiat. Sì, allora, Fiat ha perso 6,79% circa dopo alcune sospensioni per eccesso di ribasso. Gli scambi sono stati elevati in quanto è stato scambiato oltre il 6% del capitale. Allora bisogna dire che è stata una seduta contrastante per il settore auto. Allora Fiat ha sempre viaggiato in controtendenza durante la giornata, nel pomeriggio il comparto auto balzava di oltre il 4% grazie a Volkswagen, che ha raggiunto anche un più 40% circa. In realtà poi il comparto ha chiuso in ribasso dell'1% e Volkswagen ha limitato i guadagni, segno appunto di quei movimenti tecnici di cui parlavamo prima. Per quanto riguarda Fiat, che ha sempre viaggiato in controtendenza, oggi sono state comunicate le immatricolazioni di veicoli commerciali, che hanno visto un calo a settembre, ma Fiat ha comunque confermato la posizione di leadership. Allora, questo per quello che riguarda i titoli di borsa. Vedo molte domande che riguardano comunque i depositi bancari e i depositi postali. No, la garanzia di 103.000 euro vale solo per i depositi in banca, non per i depositi postali. La Banca d'Italia, il fondo di garanzia interbancario, quello che vale 500 miliardi a cui contribuiscono di euro in Italia, a cui contribuiscono tutte le banche, proprio per evitare che in caso del fallimento di una banca si ripeta quella cosa successa nel 29, per cui c'è questo fondo di garanzia, la Banca d'Italia garantisce poi per le banche, e quindi i depositi in Italia sono garantiti tutti fino a 103.000 euro, quelli bancari. Le poste no, il che non vuol dire che le poste non siano sicure, è solo un'informazione, diciamo, di servizio. Due, giustamente alcuni, penso, imprenditori ci fanno notare che a loro hanno fatto, diciamo, non uso l'espressione che usano loro, ma hanno fatto un discreto sforzo per ottemperare tutti i vincoli di Basilea 2, le nuove regole contabili che per ottenere un prestito in banca le imprese devono rientrare in queste regole contabili molto più stringenti sulla capitalizzazione, su tante cose, insomma, giro di vite sull'affidabilità delle imprese. E poi nel frattempo queste regole valevano per gli imprenditori, ma nessuno andava a fare le pulci alle banche che imbarcavano, in alcuni casi, non in tutti, miliardi e miliardi di prodotti tossici senza che ci fosse una Basilea 2 per le banche. Avete ragione, due pesi e due misure. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ancora tra i migliori e peggiori: risanamento perde il 20%, Tiscali il 17%, Gemina il 14%, la Popolare di Milano appunto la peggiore di quelle della S&P MIB, meno 13%, e Pirelli Real Estate perde l'11%, Safilo Group il 13,20%, mentre tra i migliori Piaggio più 14,2% grazie all'immatricolazione delle due ruote, Nokia più 7,3%, la Milano Assicurazioni più 5,90%. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, e poi l'ultimo fronte di questa crisi per quello che riguarda la giornata odierna, il Fondo Monetario Internazionale che si è riunito a Washington. Come il nostro GR vi ha ricordato, ma lo ripeto anch'io, poco fa, mezz'ora fa, si è saputo di una telefonata di Bush a Berlusconi, Brown e Sarkozy, in cui si è detto disponibile a fare un vertice dei G8 straordinario per affrontare la crisi finanziaria in atto. Allora, il fronte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, appunto iniziata a Washington una settimana di assemblee. Partiamo dal Fondo Monetario Internazionale, che ha definito quella crisi in atto un terremoto senza precedenti. La crisi costerà 1.400 miliardi di dollari. Per ora le svalutazioni complessive delle banche mondiali hanno raggiunto la quota di 760 miliardi di dollari. Queste sono svalutazioni, vuol dire che erano investimenti che valgono di meno e quindi a bilancio vengono svalutati. Complessivamente sono 760 miliardi di dollari, di cui 580 miliardi a carico direttamente delle banche e poi 180 miliardi per intermediari finanziari non bancari, 100 miliardi per le assicurazioni di svalutazione e altri 60 miliardi dagli hedge fund. E le società pubbliche hanno svalutato per ora per 15 miliardi, ma il fondo si attende 115 miliardi e dice si è a metà delle perdite potenzialmente conosciute. Allora, Alessandro Merli in collegamento con noi da Washington, buonasera. Sì, buonasera. Alessandro, questa è l'indicazione che secondo il Fondo Monetario, contrariamente a chi dice non si può sapere a che punto siamo, siamo a metà del guado? Diciamo che il Fondo Monetario stesso ammette che queste stime, pur con tutte le metodologie più accurate possibile, restano pur sempre abbastanza approssimate. Questo l'ha detto oggi Jaime Caruana, il capo della divisione mercati del fondo, che è quella che si occupa di questo rapporto sulla stabilità finanziaria. Quindi si parla di 1.400 miliardi di perdite potenziali, quando ad aprile il fondo parlava di 1.000 miliardi di dollari di perdite potenziali. La metodologia seguita è stata la stessa, però nel frattempo c'è stato un netto peggioramento delle condizioni dei mercati. Quindi lo stesso fondo ammette che se dovesse esserci per esempio un deterioramento delle condizioni dell'economia reale, questo a sua volta si ripercuoterebbe sulle banche e le altre istituzioni finanziarie. Quindi sono calcoli che per forza di cose, soprattutto in una situazione fluida e permanentemente in movimento come quella attuale, sono sempre un po' indicativi. Certo, la cifra fa impressione, c'è un aumento del 40% da aprile fino ad oggi. Sì, perché ad aprile si disse intorno ai 700-800 miliardi, se non ricordo male, Alessandro, ma vado a memoria. Si disse circa 1.000 miliardi. 1.000 miliardi, sì. Qui siamo a 1.400. Ecco, esatto, di cui una parte attribuibile alle banche, al resto con le istituzioni finanziarie che hai citato. Siamo adesso a 1.400, però il fondo non esclude che la cifra possa aumentare ancora, e comunque riconosce che inevitabilmente c'è un po' di approssimazione questi calcoli. Come dicevi tu, fino adesso quello che sappiamo per certo sono le perdite già riconosciute, cioè 580 miliardi di dollari per le banche e il resto per le altre istituzioni. E allora qui finanziarie. E qui arriva anche la notizia, io non so, voglio dire, anche il Fondo Monetario dovrebbe stare attento a diffondere notizie se non ha tutti questi elementi in mano, però Jaime Caruana, che è il direttore della divisione mercati dei capitali e monetari del Fondo Monetario Internazionale, ha detto che di questi 1.400 miliardi ben il 40% peseranno sull'Europa. No, in realtà ha detto una cosa un po' diversa. Ha detto che delle perdite fino ad ora riconosciute, si riferiva in particolare a quelle delle banche, cioè quei 580 miliardi di dollari, di queste sappiamo che il 40% è attribuibile alle banche. Allora c'è un'agenzia, no, hai fatto bene a precisarlo, perché l'agenzia battuta è completamente diversa, no? L'Europa pesa per il 40%. Sono cifre che comunque in note, un certo senso conoscevamo, sì, già, certo, cioè, certo. Il Fondo Monetario fa la somma di tutti gli annunci di svalutazioni, di write down, certo, in inglese, fatti dalle banche fino ad oggi, il totale 580, constata che il 40% di queste è attribuibile alle banche europee. In realtà su questi 1.400, ha poi precisato Caruana, è possibile che buona parte del resto venga attribuito, sì, soprattutto alle banche e alle istituzioni finanziarie americane, il che non vuol dire che poi la situazione non possa a sua volta, come abbiamo visto in questi giorni, deteriorarsi anche in Europa, certo, e che anche la percentuale attribuibile alle banche europee possa aumentare. Adesso Alessandro ti faccio sentire invece un'intervista che abbiamo realizzato lo scorso fine settimana al convegno dei giovani imprenditori con il presidente della BNL Luigi Abete, perché poi vorrei un tuo rapidissimo commento. La domanda è: tutti dicono che la colpa è dei mercati, dei manager, dell'assenza di regole, che dell'assenza di politica, del mercato lasciato operare da solo. Luigi Abete la pensa in maniera molto diversa. Non dobbiamo dimenticare che è la politica che ha causato questa situazione in America, e quindi inevitabilmente è la politica che ci mette una pezza. È la politica che ha causato questa situazione in America, perché la crisi di alcuni grandi gruppi americani è figlia di una politica economica eccessivamente lassista degli ultimi anni, da un lato, e di una politica di deregulation molto forte dall'altro lato, tutte e due applicate in America, e tutte e due causa, a mio avviso, di questa crisi finanziaria che ha toccato alcuni. Quindi è inevitabile che l'intervento della politica possa realizzarsi. È evidente che questo dimostra una cosa che il mondo dell'impresa italiana Personalmente, anche quando facevo il presidente di Confindustria, il presidente dei giovani imprenditori, dicevo che quando si dice libero mercato, si dice si usa un'espressione che può indurre in errore. Il mercato o è regolato o non è mercato. E poiché la regola, in termini di indirizzo, in termini di sanzione, non può che farla l'autorità istituzionale, noi dobbiamo abituarci a considerare il mercato in quanto tale. Allora, netto il giudizio di Luigi Abete. Alessandro Melli, si discute della responsabilità anche al Fondo Monetario, che non è un soggetto del tutto estraneo. Hai un minuto? Certo. Alessandro? Sì, scusate. Dico, si discute delle responsabilità del Fondo Monetario Internazionale dopo quello che abbiamo sentito da Luigi Abete, visto che il Fondo Monetario non è un soggetto estraneo? No, il Fondo Monetario sicuramente non è un soggetto estraneo, anche se in parte le sue competenze sono diverse, soprattutto sulla sorveglianza macroeconomica, e adesso si sta allargando un po' a questo discorso della stabilità finanziaria. Non c'è dubbio che la crisi ha molti padri, uno di questi potrebbe essere anche il Fondo Monetario. Non mi sembra però che in questo caso il suo ruolo sia stato quello determinante, piuttosto parliamo del ruolo da un lato della politica monetaria troppo accomodante, lo abbiamo detto tante volte, della Federal Reserve, che ha incentivato questi comportamenti dei mercati, dall'altro di un'assenza di regole, o comunque di regole che tendevano a facilitare certi comportamenti e certi incentivi perversi. Credo che una parte di ragione ce l'abbia Abete quando dice la politica ha giocato a sua volta un suo ruolo, nel senso che è vero per esempio negli Stati Uniti che le due famose agenzie pubbliche o semipubbliche, sì, Freddie Mac e Fannie Mae, sono state fortemente spinte dai politici americani di tutte e due i partiti a ampliare in modo irresponsabile il loro coinvolgimento nel mercato immobiliare, e questo a sua volta ha fatto da volano a tanti, certo, altri comportamenti. Quindi c'è una componente diciamo della politica, l'altra è quella di una deregolamentazione di alcuni settori, che in parte è derivata dalla, dicono i tecnici, chiamiamola così, la cattura del legislatore da parte di interessi costituzionali. Le lobby che avevano interessi, certi interessi. Però è chiaro che anche Greenspan, che tu citavi, in una politica di tassi di interesse americani troppo bassi, troppa liquidità, la bolla, dicono molti, adesso l'ha creata Greenspan, che ha tenuto troppo bassi i tassi. Beh, Greenspan non si muoveva completamente da solo, è sempre stato un presidente molto molto sensibile anche alle esigenze della Casa Bianca, per cui torniamo sempre al ragionamento. Poi non è vero che sia mancata la politica, parlo degli Stati Uniti in questo caso, è la politica americana che ha preso le scelte sbagliate, vuoi per una sottovalutazione, vuoi perché è molto sensibile alle lobby e alle pressioni di gruppi di potere, vuoi perché in qualche modo si è cercato di usare un effetto elettorale in questo facile credito, e adesso la stiamo pagando tutti. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Washington, dove appunto oggi è la giornata del Fondo Monetario Internazionale. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio adesso al nostro GR, noi ci risentiamo dalle 17, scusate, vi lascio adesso alla nostra pubblicità, non al GR certo, a Giuseppe Cruciani, e poi noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.